Allora, mi chiamo Antonio Canaglia, sono il titolare dell'Hotel Irma di Folgaria. Ho varie attività oltre all'hotel, ho due ristoranti, di cui uno è l'Osteria del Gufo, l'altro è il ristorante da Ugo e il Takeaway. Quando ero bambino ho cominciato a lavorare come cuoco, mi piaceva rimanere in cucina e fare il lavoro da cuoco. L'ho fatto fino all'incirca 35-37 anni. Dopo da lì cominciavo ad annoiarmi e quindi in realtà ho cominciato a fare altre cose, a prendere in gestione dei locali perché la noia è una brutta cosa. In realtà se uno si annoia non è neanche piacevole lavorare. Il lavoro deve essere anche piacevole, non deve essere solamente un qualcosa di ludico, proprio prettamente economico, deve essere piacevole, se no uno perché la mattina si deve alzare e andare a lavorare, se non si trova bene. Dopo, non trovandosi bene, non funziona bene anche l'organico, con chi lavori insieme, non funziona l'attività, non funziona tutta una serie di cose, quindi se uno è sereno e felice funziona tutto bene. Meriti i soldi. Eh? Ma non si, Meriti ma, poco. ma talvolta non si fa, non si va a lavorare per. Allora, principalmente il lavoro è economico, si va a lavorare per produrre soldi, economia. Ma normalmente non è quello che dopo. Nel proseguo degli anni non si va a lavorare solamente per un lato economico, si va a lavorare perché si ha piacere di andare a lavorare, perché se no si sta a casa. Si dice, i soldi non fanno La felicità, felicità. i soldi servono, ma non bisogna farsi prendere dall'affanno dei soldi. Mi avevate chiesto se avevo se avevo trovato dei clienti sgarbati o quant'altro. Abbiamo trovato tutti dei clienti che non erano piacevoli da gestire. E ovviamente un sorriso, una persona che si trova all'ingresso che può aiutare è sempre piacevole. Antonio Portovia. Poi vai, vai. Grazie, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Quando mio padre ha comperato l'albergo per regalarlo a mia mamma. È stato un regalo di mio padre a mia madre, ovviamente dopo il discorso era un regalo alla mamma, ma dopo sarebbe entrata la famiglia e avrebbe cominciato a far lavorare i figli. E era della signora Irma Tollar, Ah, ok? Il nome è rimasto Irma perché non abbiamo mai voluto cambiarlo. In realtà in questo momento il nome ci crea anche piccole difficoltà, nel senso che non è sicuramente un nome attuale, perché adesso i nomi attuali sono un po' diversi dai nomi che si davano una volta, no? Cioè personali di persona, e quindi adesso si cerca di dare nomi a delle strutture diverse dal nome proprio della persona che ha cresciuto la struttura, che ha fatto nascere la struttura. Vabbè, a parte questo, l'albergo è stato ristrutturato dopo che è stato comperato, dopo 10 anni, è stato demolito, ricostruito, ampliato, sistemato. Ho lavorato per 20 anni con mio fratello insieme. E dopo ovviamente Paolo. E dopo ovviamente come tutte le famiglie, il tronco è la base della famiglia e dopo ci sono i rami che uno va a destra, uno va a sinistra, ma è giusto così, cioè è il ciclo della vita. E quindi uno ha scelto una strada, io ho scelto un'altra strada, siamo tutti felici e contenti e quindi abbiamo risolto un bel po'. Le caratteristiche che ci vogliono per chi volesse intraprendere la sua stessa professione. Un po' di follia, ci vuole la follia. Se uno vuole essere tranquillo, sereno, avere il posto fisso e stare tranquillo, questo è completamente da scartare. Perché qua la mattina uno si alza, può essere tutto bello, e la sera quando uno va a letto può essere che ci sono tanti problemi, tante cose, una persona che si fa male, un cliente che non sta bene, un bambini che urlano. Ma quello è banalità, nel senso un gruppo che salta di 50-100 persone, non sai come ripiazzarlo, clienti che devono andare a casa prima per il Covid, gestire il Covid in questo momento in una struttura è fantastico, è una cosa, sembra una banalità, ma è follia allo stato puro. Cioè, il personale che tutti i giorni tamponi contro tamponi per capire se siamo tutti a posto, le quarantene, cioè follia. Ma è bello, questa è la vita, il bello della vita è proprio questo, non capire, non sapere quello che succede domani mattina. Se tu sai già quello che succede, non è bello, ti annoi, dopo un po' ti annoi, perché tanto succede sempre quello. Ma quanti posti ha questo hotel? 78. Ma adesso proprio 2022 o anche pre-Covid? Pre-Covid ne avevamo di più. Pre-Covid arrivavamo a 100 posti letto. Adesso con la pandemia, con ancora le restrizioni che ci sono al momento attuale, andiamo a un 30% in meno, e deve essere così finché non viene dichiarato la chiusura di questo stato di emergenza che abbiamo. Grazie, bocca al lupo di tutto e buona vita.